La versione di Oscar Giannino. Buongiorno, anzi buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo lunedì 16 maggio siamo alla versione di Oscar e dagli studi di Milano Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, perché come sapete, avete riascoltato nelle ultime settimane, sono numerose le trasmissioni che vengono dalle vostre segnalazioni e così via. A dire la verità, l'attenzione sul tema di cui parliamo oggi è venuta ancora una volta, me l'ero segnato come tema, però alcuni di voi hanno scritto tra giovedì e venerdì della settimana scorsa segnalandolo e chiedendomi un'opinione, perché è un tema di cui a dire la verità si è occupato più volte con un certo approfondimento quasi pressoché esclusivamente il Fatto Quotidiano rispetto a tutte le altre testate, cosa che la dice lunga, sull'informazione italiana. Però alcuni di voi, leggendolo sul Fatto Quotidiano, sono rimasti colpiti dalla vicenda di cui parliamo oggi e mi hanno chiesto di capire, ma è il Fatto Quotidiano che esagera perché fa di tutto argomento per criticare il governo, oppure è davvero come scrive il Fatto Quotidiano? E allora a quel punto oggi abbiamo chiamato degli esperti per spiegare il punto. Di che cosa si tratta? Si tratta del decreto delegato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, quindi la riforma Madia, che riguarda esplicitamente il tema delle partecipate e controllate pubbliche. È un tema su cui chi volesse trova su il Leoni blog, quindi sul blog del suo Bruno Leoni, su cui sistematicamente scrivo più volte miei interventi nel tempo, fin dal testo della legge delega poi alla norma delegata, perché ricordo a tutti che noi da anni viviamo nella promessa pubblica di intervenire sulle oltre 10.000 partecipate e controllate pubbliche, su quello che con una formula fortunata per il rapporto annuale che il Mulino redige sulle società controllate e partecipate pubbliche, da alcuni anni si usa chiamare come il socialismo municipale, le IRI locali e così via. E da anni a ogni incaricato della spending review c'è la promessa di chiuderne migliaia. Anche questo governo, più volte troverete dichiarazioni di ministri di questo governo, dicono che questa sarà la volta buona, Gutke, Joram Gutke, ed è due anni che ci dice ne chiuderemo migliaia l'anno prossimo, tutto l'anno prossimo. Di solito le migliaia individuate si sono ristrette come criteri, perché mentre nelle 55 proposte lasciate da Cottarelli si indicavano criteri molto stringenti per la chiusura davvero di migliaia, ma se ne indicavano anche quali, di società pubbliche, alla fine siamo arrivati forse alla chiusura solo di quelle che hanno fatturati microscopici e che hanno più amministratori che dipendenti. Ma il nocciolo vero è un altro, cioè Cottarelli diceva bisognerebbe rimotivare l'esistenza di ogni partecipata e controllata con delibere da sottoporre all'antitrust per giustificare o meno l'esistenza di partecipate controllate con argomenti stringenti sul fatto che l'offerta concreta dei servizi non possa essere gestita in termini più efficaci ed economici attraverso gestioni ai privati. Non c'è niente di tutto questo in arrivo e anzi nella norma delegata della riforma Madia si consente la presenza del Consiglio con decreti di presidenza del Consiglio di eccepire a qualunque criterio di eventuale chiusura, ristrutturazione e di vincolo presente nella norma delegata. Di anno in anno la presenza del Consiglio può decidere a chi non si applica, quindi capite che è una formula del tutto discrezionale, di cui nasce il fatto che ATA e AMA con certezza non verranno risolti con i libri in tribunali a Roma e che magari sarà Ferrovie dello Stato a rilevare ATA e così via, cioè la pura discrezionalità. A me questa cosa sembra un totale tradimento di qualunque impegno annunciato. Ma detto tutto questo, la cosa di cui ci occupiamo oggi, che aveva invece attirato l'attenzione dei nostri ascoltatori, è su un altro punto, cioè la questione è questa: quale sarà la disciplina del controllo giurisdizionale su tutte le partecipate e controllate pubbliche? Perché nell'articolo 12 di questo decreto Madia si fa una rivoluzione, cioè si attribuisce il controllo giurisdizionale, quindi a cominciare da quello per danno erariale, non più alla Corte dei Conti, come è stato nel nostro ordinamento, ma alla magistratura ordinaria. Allora, da una parte uno dice, la Corte dei Conti inutili finalmente. No, attenzione. Questo punto che il Fatto nei suoi articoli ha rilevato come un punto di fondo perché significa tempi più lunghi con la magistratura ordinaria, significa non avere la competenza tecnica che la Corte dei Conti nelle sue emanazioni territoriali e centrali ha maturato da decenni il controllo contabile sui rendiconti per identificare il danno erariale e così via. È una rivoluzione di una certa importanza. Una rivoluzione di una certa importanza rispetto alla quale poi da anni è nato uno scontro tra magistratura ordinaria e magistratura contabile, che sono contrapposti. E sono contrapposti e oggi la politica mette il timbro, per così dire, a questo scontro di cui si sono occupati gli addetti ai lavori, dicendo no, noi scegliamo la magistratura ordinaria. Allora, per tentare di capire se questo non significhi, io penso di sì, non significhi un grande abbraccio tra la politica che è intenzionata a diminuire l'efficacia del controllo su come si spendono le partecipate pubbliche, a diminuirla, a renderla più diluita nel tempo, a complicarne anche l'apertura di procedimenti, perché vedremo che magistratura ordinaria significa che si fa solo su istanza di parte, non più automaticamente come per la competenza attribuita alla Corte dei Conti. Allora c'è da una parte questo interesse alla politica, che dica, e dall'altra parte vediamo quale interesse della magistratura ordinaria a disconoscere la Corte dei Conti. Allora, questo è il tema apparentemente tecnico, ma che in realtà riguarda i soldi di ciascuno di noi che si buttano in maglia di partecipate pubbliche, e il cambio del controllo giurisdizionale che nel silenzio però il governo attua esattamente con la norma delegata della riforma Madia. Allora, per illuminarci sugli aspetti tecnici, ma anche sulle conseguenze che per ciascuno di noi ha a qualunque livello dell'amministrazione pubblica, ci sono due esperti. Da una parte il Francesco Marone, che è ricercatore di diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa e che alla Suor Orsola Benincasa si occupa esattamente del controllo di giurisdizione e non solo nel master di secondo livello che serve per preparare ai concorsi pubblici e che è intervenuto più volte anche su questi argomenti. Grazie di essere con noi. Grazie a lei, buongiorno. E l'avvocato amministrativista Rocco Todero, che ha finito per occuparsi col suo studio anche di vicende che hanno visto proprio la magistratura ordinaria e contabile, vicende che sono ancora aperte, che si, tra virgolette, contendono il controllo giurisdizionale sulle società pubbliche. Grazie di essere con noi. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, posso chiedere a Francesco Marone, questa rivoluzione sul controllo delle partecipate, in realtà come nasce dal punto di vista tecnico e perché la Corte dei Conti e la magistratura ordinaria sono così duramente contrapposti su questo tema? Credo che la questione posta al Fatto Quotidiano sia sicuramente una questione senz'altro interessante. Credo che però richieda una precisazione ed una premessa. Cioè, a me sembra che il problema dell'estensione del controllo della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica sia, diciamo, la conseguenza del modo in cui quelle società, il regime giuridico di quelle società viene riorganizzato. Cerco di spiegarmi meglio. La delega prevedeva che il governo dovesse riordinare tutte le tipologie di società a partecipazione pubbliche stratificate in diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo, un po' inseguendo anche gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia, il referendum sull'acqua, tutta una serie di vicende. Questo è un punto sul quale forse il decreto è veramente carente, quello che diceva lei un attimo fa, non si individuano delle tipologie, si individua sostanzialmente un unico tipo e poi si dice quando quel tipo non è compatibile con l'attività istituzionale della società che andiamo a costituire, il Presidente del Consiglio deroga la disciplina, esatto, Sottraendo quella società. Questa è la soluzione di fatto trovata da questo decreto e questo forse è il vero limite, cioè l'articolo 1 al comma 4 indica semplicemente che le società per le quali c'è una legge istitutiva di fatto o un atto sottordinato alla legge sono fatte salve, cioè la norma che salva la Cassa Depositi e Prestiti, per capirci, capito. E che spunta questa norma lo Stato dovrebbe uscire dalla Cassa Depositi e Prestiti, che naturalmente sarebbe una follia. Il punto, ripeto, è del controllo giurisdizionale viene dopo, cioè la giurisprudenza della Corte di Cassazione dice, tiene distinte le società a partecipazione pubblica dalle società strumentali o in-house, cioè sì, da quelle società che poiché l'amministrazione che le ha costituite le controlla come un ramo della sua amministrazione, sono considerate un pezzo dell'amministrazione. Su queste la Cassazione ha sempre ritenuto che ci fosse la giurisdizione della Corte dei Conti, ha mai detto non c'è. Ha limitato la giurisdizione per le società a partecipazione pubbliche alle ipotesi in cui il danno sia un danno diretto, cioè non solo hai speso male i soldi della società e la mia quota sociale vale meno, che è sottoposta al normale regime di società di capitali dell'azione di responsabilità dei soci nei confronti dell'amministratore, ma non hanno diretto, o perché hai mal esercitato le funzioni di socio, o perché l'amministratore ha direttamente danneggiato l'ente socio. Peraltro ci manca la locuzione direttamente nella formulazione della norma, così com'è, si parla di danno subito dagli enti partecipanti, quindi diciamo così com'è si potrebbe anche creare una giurisprudenza nella quale si fa valere un danno che riguarda il valore della partecipazione sociale. Il vero tema secondo me è che qui non si dice che per le società in house, cioè per quelle società che di fatto sono un ramo dell'amministrazione, non c'è controllo della Corte dei Conti. Lei facevi riferimento all'ATAC, o va bene la NM a Napoli piuttosto che l'ATM, certo, a Milano, sono società che sono, diciamo, società di capitale sul piano formale, ma che sono di fatto pezzi di pubblica amministrazione, 100% di proprietà del comune. Per capirci, se compra un treno che non è adagiabile nella sede della metropolitana, deve o non deve andare in Corte dei Conti? Forse sì, questo è un po' il vero punto. Che una società di capitali invece che svolge un'attività istituzionale che non è equiparabile a quella di un ramo della pubblica amministrazione sia sottratta al controllo della Corte dei Conti è ragionevole, ma questo la Cassazione lo dice da sempre. Bastava, diciamo, in qualche modo prendere dalla giurisprudenza della Cassazione entrambi gli aspetti e non soltanto uno. Su questo punto sicuramente c'è un limite del decreto, ma che, ripeto, discende dal fatto che non si è sciolto il nodo di fondo, che era quello di individuare in maniera dettagliata le diverse tipologie di partecipazione pubblica alle società. Allora, su questo la mia obiezione è che, appunto, l'evoluzione nel tempo delle forme giuridiche attraverso le quali le società partecipate e controllate dallo Stato hanno continuato a esercitare le loro funzioni dall'inizio degli anni 90, in buona sostanza dagli anni 80, fine anni 80, ma soprattutto dagli anni 90 in poi, no? In realtà, dal mio punto di vista, dovrebbero tutte misurarsi con un criterio di fondo. Questo criterio di fondo è che possono essere anche SPA, ma magari al 100% controllate, come è avvenuto per alcuni grandi gruppi pubblici, oppure possono essere anche SPA, ma comunque controllate dallo Stato attraverso una quota di controllo rispetto alla quota minoritaria data dopo sollecitazioni pubbliche al risparmio e con privati che sono entrati, ma con l'esercizio del controllo, quindi la nomina della maggioranza netta degli amministratori, i poteri di indirizzo della società che restano in mano pubblica. In quei casi, quindi sia il puro vestimento societario in forma di SPA, sia il fatto che magari ciò serva, come avverrà per Ferrovie dello Stato, per quotarla ma con il controllo che resta pubblico, come è di fatto poi avvenuto per Eni, eccetera eccetera. Allora, la mia opinione è che laddove ci sia un denaro pubblico che configura diritti di controllo e di gestione, allora lì non è l'evoluzione della forma giuridica, ma è la sostanza del fatto che il controllo non si perde, quindi non c'è un mercato del controllo proprietario, perché lo Stato comunque si tiene il diritto di dire comando io, gestisco io, nomino io. Allora, lì la mia opinione è che la garanzia attraverso la disciplina e la giurisdizione contabile della Corte dei Conti sia, dal punto di vista del contribuente, meglio garantita. Dove mi sbaglio in questa posizione, secondo Marone? Ma guardi, io credo che, ripeto, c'è un problema di fondo. Cioè, l'idea, lei citava le Ferrovie dello Stato, credo che il suo riferimento possa essere esteso a tutte le società, diciamo, delle vecchie partecipazioni statali, che poi, diciamo, sono passati dall'essere degli enti pubblici economici a delle società per azioni con il decreto del 92 del governo Amato. Esatto. Il problema non è questo. L'articolo 41 della Costituzione disegna un modello economico misto pubblico-privato. La proprietà delle società può essere pubblico-privato e questo è indifferente anche per il diritto comunitario. Certo. L'elemento di novità del diritto comunitario sta nella tutela più stringente delle norme sulla concorrenza e quindi dell'equilibrio del mercato. Il vero problema è che, siccome quando si sono liberalizzati i servizi pubblici locali sono fiorite un numero di società spaventoso, il riferimento che faceva lei prima a tutte quelle partecipate e mini partecipate degli enti locali, nelle quali addirittura ci sono casi paradossali nei quali ci sono più consiglieri di amministrazione che dipendenti, per limitare quel fenomeno si è fatta tutta una legislazione stratificata che ha limitato la possibilità del ricorso, l'ambito di operatività delle società pubbliche, che sono invece previste dalla Costituzione e necessarie anche in qualche modo a equilibrare il mercato verso i fini sociali di cui parla il comma 3 dell'articolo 41 della Costituzione. Quindi quello va bene, e nel momento in cui pubblico e proprietario di una società di capitali che sta sul mercato, non è possibile naturalmente che un soggetto giuridico autonomo, qual è una società di capitali, che ha una soggettività giuridica autonoma rispetto a esso, si possa sottostare alla giurisdizione della Corte dei Conti come fosse un ramo dell'amministrazione, perché naturalmente c'è il risparmio, c'è l'emissione obbligazionaria, a maggior ragione se si va a quota rimborso. Quindi quello va benissimo, ma su quello la giurisprudenza della Cassazione è chiara e condivisibile. Il problema sono le società partecipate, degli enti locali. Lì c'è un nodo di fondo che nessuno è ancora andato a sciogliere. Questi qui possono o non possono fare gli imprenditori? Questo è il problema. E non lo possono fare. Mentre tra le finalità istituzionali dello Stato c'è anche quella di indirizzare l'economia del paese verso finalità sociali e quindi di intervenire nell'economia, quindi l'interesse economico generale è una finalità dello Stato, non è una finalità del comune, questo è il punto. Allora il comune o fa una società strumentale attraverso cui gestisce una funzione amministrativa che altrimenti gestirebbe attraverso un suo ufficio direttamente, e allora deve essere sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti, oppure non può fare una società. E non è che può stare sul mercato. Però in tutti i grandi comuni, cioè su 8.000 comuni, in almeno 5.000 comuni avviene esattamente quello che lei dice, cioè lo Stato si sostituisce agli imprenditori, il comune si sostituisce, cioè, voglio dire, il comune di Roma controlla due società agricole che producono in perdita salami e carni. Quindi nella realtà la stragrande maggioranza, tranne i comuni piccolissimi, cioè leviamo le 3.000 e le 8.000, ma in 5.000 casi avviene esattamente questo. E con la nuova disciplina magistratura ordinaria significa che se il comune non fa l'istanza di parte per il danno erariale, non c'è il danno erariale che viene contestato. Uno, due, che i tempi si moltiplicano, perché mentre rispetto al controllo che viene fatto in sede regionale dalla Corte dei Conti e di anno in anno sui rendiconti, con la magistratura ordinaria, sempre che il comune o la regione si faccia parte attiva per l'apertura del procedimento, passano anni e anni. Questo è quello che vedo io come rischio vero, e cioè vedo un convergente interesse tra la politica a una vera rottura di scatole e a decidere lei se si apre o meno l'azione, perché alla testa delle partecipate ci sono uomini dei partiti e della politica, arriviamo al punto vero, e dall'altra parte la magistratura ordinaria che dice alla Corte dei Conti c'hai rotto le scatole da anni, perché da anni noi pensiamo che hai un eccesso di giurisdizione, tant'è vero che il CSM non lo vuole il controllo della Corte dei Conti e si è inventato di essere un organo di rilevanza costituzionale, cosa che in Costituzione non è, tanto per essere chiaro. Quindi io vedo una coerenza in questo, posso sbagliare, vediamo però cosa mi rispondono i nostri due ospiti. Cominceremo da Rocco Todaro tra un minuto, perché intanto andiamo alle informazioni stradali. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, questo lunedì 16 maggio. Stiamo parlando del decreto di attuazione della riforma Madia, la legge delega, che sul punto delle partecipate introduce, oltre a grandi delusioni, perché si aspettava davvero criteri generali di riclassificazione e di dismissione o di riaccorpamento delle società controllate centrali e locali, un grande regime di eccezione. La presidenza del Consiglio può eccepire con proprio decreto su qualunque norma generale posta nel decreto delegato, e un cambio del controllo giurisdizionale, visto che per l'articolo 12 si dice che per tutte le società è la magistratura ordinaria a esercitare il controllo. Io ho la sensazione, ci ha detto Francesco Marone, che è associato a diritto costituzionale all'Università Solorzano Benincasa, che la magistratura, la giurisprudenza accumulata distingueva, no? E che quindi il problema è che, siccome non è preciso il decreto delegato, ecco perché si arriva alla magistratura ordinaria che subentra la Corte dei Conti, soprattutto laddove con le controllate partecipate locali sono più di 10.000, invece ci vuole una certa chiarezza nel distinguere tra le cose in house e le società che si sostituiscono al ruolo di imprenditore, che potrà pure rientrare nelle funzioni centrali dello Stato, ma non dovrebbe essere in quello del comune. Invece è esattamente così, e io dico, questo significa che la politica, che nomina i suoi rappresentanti, capi corrente nelle tantissime, oltre 10.000 partecipate locali, ecco che si riserva il diritto di dire faccio o meno, intento o meno azione alla magistratura ordinaria, non c'è la competenza automatica più della Corte dei Conti, e dall'altra parte la magistratura ordinaria porta a casa un punto rispetto alla magistratura contabile, verso la quale negli anni, secondo me, ha sollevato eccezioni di competenza sempre maggiori. Ripeto, non credo che sia un caso che il CSM si inventi la qualifica di organo di rilevanza costituzionale per dire non do i miei rendiconti alla Corte dei Conti. Allora, Rocco Todaro, dal suo punto di vista, le mie preoccupazioni sono ingiustificate? No, le preoccupazioni sono giustificate. Vorrei innanzitutto fare una premessa. L'Italia credo che sia uno dei pochi paesi al mondo, forse l'unico, in cui un cittadino, in questo caso anche un pubblico amministratore, prima di sapere se è stato responsabile da 4-5 anni, solo per decidere e per capire qual è il tribunale che ha la giurisdizione. E questo non è un elemento assolutamente da sottovalutare. In Italia è accaduto per molto tempo, all'inizio degli anni 90, nel corso degli anni 2000, soprattutto quando c'è stato un braccio di ferro anche tra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria. Oggi questo braccio di ferro si ripropone, perdiamo 4, 5, anche 6 anni solo per capire chi è che deve decidere e non credo che sia, diciamo, un elemento da valutare positivamente sul piano dell'efficienza della giustizia, soprattutto in materia di danno erariale. Faccio un esempio recente, la controllata regionale siciliana, la cui testa Crocetta ha chiamato l'ex Esatto. magistrato Antonio Ingroia. Ingroia, anche lì, per capirne la giurisdizione, una sentenza di primo grado che dice Corte dei Conti, una sentenza di secondo grado che dice magistratura ordinaria, e adesso si va in Cassazione. Sì, e ancora non si è deciso nulla, dopodiché la Cassazione scioglierà il nodo e si ricomincerà da capo, cioè dal primo grado. Seconda osservazione, la giurisdizione contabile usufruisce dei poteri ispettivi della procura contabile, che sono poteri di indagine veri e propri. La procura poi si avvale della Guardia di Finanza. Questa capacità di andare a prendere fascicoli, sequestrarli, guardare bene, guardarsi bene dentro, da un input che non è in nessun modo paragonabile a quello che può accadere o agli strumenti che può avere un privato, un socio o un qualsiasi altro soggetto per attivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per mala gestione. I poteri della Procura Contabile sono, insomma, dei poteri veramente sostanziosi, come può testimoniare chiunque abbia avuto a che fare con queste procedure e quindi cancellare questa giurisdizione, come dire, mette al riparo sicuramente anche da indagini serie. La terza cosa che mi preme sottolineare è questa: noi ci troviamo di fronte a una politica che secondo me si vuole difendere da se stessa. Perché? Perché a un certo punto della storia d'Italia si sono resi conto che gli strumenti della pubblica amministrazione, quelli puri, quelli per i quali l'amministrazione agisce attraverso il procedimento amministrativo, non erano idonei allo svolgimento di attività che si dovevano confrontare con il mercato o che comunque dovevano produrre efficienza. Efficienza e procedimento amministrativo, insomma, stanno in antitesi. E allora che cosa si sono inventati? Si sono inventati che l'azione non si deve svolgere più tramite il procedimento amministrativo, ma tramite le forme di una società commerciale. Però naturalmente resta il problema che siccome i denari sono pubblici, giustamente, il controllo deve essere della Corte dei Conti. Questo ibrido, per cui devo essere efficiente come un soggetto privato, ma in realtà lo devo essere su un settore, su un piano che è tipico del privato, non è connaturato all'attività della pubblica amministrazione, crea questo cortocircuito. Crea questo cortocircuito per cui davanti alla Corte dei Conti abbiamo giudizi in cui gli amministratori delle società partecipate sono chiamate a rispondere un po' di tutto, naturalmente ci sono i casi gravi in cui c'è stata veramente la malagestione, ma ci sono dei casi in cui un amministratore, siccome agisce o pensa di agire con i poteri dell'amministratore di una società commerciale, compie delle azioni su cui si assume quei rischi. Quando quei rischi, ahimè, producono dei danni che all'interno di una società commerciale privata potrebbero essere classificati solo come delle scelte errate che sono andate male, nel campo della pubblica amministrazione si trasformano, possono trasformarsi anche in danno In erariale. danno. Io questo lo capisco, quindi come capite, cari ascoltatori, siamo in presenza di un classico, il Cocervo, un problema apparentemente insolubile. Però questo ai miei occhi dipende dal fatto che queste società tentano di fare un mestiere che non è il loro. Ecco, io sono convinto che invece l'esito del cambio di giurisdizione a favore della magistratura ordinaria serva alla politica ad avere meno rottura di scatole, deciderà lei se intentare azione e quindi questo darà impunità da una parte e dall'altra meno poteri ai controlli. Io la penso così. Avete sentito però che gli esperti, giustamente, il professor Francesco Marone e l'avvocato Rocco Todaro dicono sì però, ok, io temo che i contribuenti saranno molto meno tutelati e il decreto falla perché doveva dire le società non servono a sostituire il mercato, devono giustificarsi laddove il mercato da solo non funziona. E non sarà così con la riforma Madia. Comunque, continuate con Radio 24, appuntamento alle 8:15 di mattina con me, Alessandro Minati, Antenne 2.